Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Maurizio De Giovanni, ora in libreria con Il metodo del coccodrillo pubblicato da Mondadori. De Giovanni lo conoscete, uno degli esponenti della noir all'italiana. Questa volta però ha abbandonato il suo personaggio seriale, quello del commissario Ricciardi, e qualcuno dei suoi lettori sarà rimasto un po' orfano di questo personaggio. Stavolta, tra l'altro, la storia è ambientata nella Napoli di oggi e non più nella Napoli degli anni 30 del fascismo, appunto, dove c'era Ricciardi. Stavolta c'è un nuovo personaggio, l'ispettore Lo Iacono. Ma partiamo prima dall'ambientazione. Perché hai abbandonato gli anni 30 e ti sei lanciato nella Napoli di oggi? Non ho abbandonato gli anni 30, perché Ricciardi continua. E quest'autunno ci sarà l'ulteriore romanzo della serie di Ricciardi per Einaudi. Il metodo del coccodrillo è una storia contemporanea che io avevo dentro, e sai che le storie mettono rami e foglie e tendono ad uscire, poi a un certo punto le devi mettere fuori. Io era una sfida che avevo con me stesso da un po', quello di capire se la mia capacità di scrittura potesse o meno eccedere gli anni 30, cioè andare, uscire da quell'epoca e andare sull'epoca contemporanea. Avevo questa storia e ho pensato che le due cose potessero essere una buona congiunzione astrale per poter scrivere un romanzo che fosse diverso. Siccome c'era questo interesse della Mondadori, che mi gratificava moltissimo, perché per ogni scrittore italiano avere questo interlocutore è un momento straordinario, ho pensato che tutto corrispondesse e ho provato a scrivere questa storia, che per fortuna non solo non è stata, diciamo, respinta dai lettori che sono, ringraziato il cielo, che amano Ricciardi, ma anzi è stata fortemente adottata e ha avuto un'espansione. Io sono contattato frequentemente da lettori nuovi che addirittura si avvicinano a Ricciardi tramite il metodo del coccodrillo. Insomma, con questo romanzo ti sei messo un po' alla prova. Sì, volevo vedere se, io non so, perché poi sai, giudicare dall'interno, non so se l'ho scritto come doveva essere scritto. Devo dire che rileggendolo somiglia all'idea che io avevo in mente, che poi uno cerca di avvicinarsi all'idea ma non sempre ci riesce. Spesso i romanzi vanno per una loro strada che prescinde dall'idea iniziale. Invece stavolta devo dire somiglia molto all'idea che avevo originariamente, quindi sono contento. La Napoli degli anni 30 e la Napoli di oggi sono molto diverse, cambiano proprio le atmosfere, anche il linguaggio di questo romanzo rispetto ai tuoi precedenti. Sì, c'è la disperazione, c'è la miseria, però di nuovo c'è la solitudine, il silenzio. La Napoli degli anni 30, che era per molti versi molto più disperata della Napoli attuale, aveva un tasso di mortalità infantile elevatissimo, aveva delle terribili piaghe sociali, tifo, colera, poliomielite. Nella Napoli attuale questo non c'è, per fortuna, però in compenso e purtroppo c'è la grande solitudine e il grande silenzio di un arcipelago di 1,5 milioni di isole che navigano disancorate in un mare in cui non ci sono ponti, e quindi queste solitudini e questi silenzi ho provato a raccontare. In questa Napoli dei giorni nostri avvengono 3 omicidi, insomma, quasi contemporaneamente, si capisce che sono della mano della stessa persona. Su questi omicidi indaga un nuovo personaggio, dicevamo, l'ispettore Lo Iacono. Chi è questo ispettore? Che caratteristiche ha? Lo Iacono è siciliano, aveva una carriera abbastanza promettente nella squadra mobile di Agrigento, quando un pentito, che era un suo vecchio compagno di scuola, ha fatto il suo nome come informatore della mafia. La cosa non ha avuto riscontri e quindi non hanno potuto sottoporre Lo Iacono a un procedimento legale, però l'hanno dovuto allontanare ed è stato trasferito senza alcuna funzione a Napoli. Lo Iacono è un'altra solitudine, è un uomo che ha alle sue spalle un amore perduto, una figlia che non gli fanno vedere e degli amici, una famiglia, e all'improvviso non ha più niente. Quindi ha un marchio di infamia addosso da cui non si riesce a separare. Questo è l'uomo che però intravede in questa serie di delitti un collegamento che gli altri non vedono, e su questo basa la propria indagine, dapprima privata, personale e poi invece ufficialmente riconosciuta. Perché tutti gli altri inquirenti pensano che ci sia la mano della camorra dietro questi omicidi, invece lo Iacono va un po' per la sua strada. Tra l'altro questo serial killer ha una caratteristica, quella di lasciare sul luogo del delitto dei fazzoletti impregnati delle sue lacrime, da qua il titolo del romanzo, no? Sì, da qua una parte del titolo del romanzo. In realtà, sai, la camorra è un po' un ombrello sotto il quale si riparano tutti, sia nel bene che nel male. Qualsiasi cosa accada a Napoli, di identico a quello che può capitare, atrocemente identico, di quello che può capitare in qualsiasi altra capitale occidentale, viene vista come frutto della camorra, dell'azione della camorra. In realtà non è così. La camorra c'è ed è un gravissimo tumore con il quale dobbiamo convivere e che cerchiamo quotidianamente tutta la gran parte dei napoletani onesti, perché la gran parte dei napoletani onesta cerca quotidianamente di estirpare, ma ci sono anche i delitti della passione e dei sentimenti. Questi delitti della passione e dei sentimenti sono quelli che lo Iacono individua nel comportamento del coccodrillo. Le lacrime sono meccaniche, sono lacrime derivanti da un'infezione dell'occhio. E non sono lacrime di passione, non sono lacrime di amarezza. Queste lacrime vengono viste dalla stampa come un marchio e quindi i delitti vengono definiti del coccodrillo. Ma lo Iacono capisce ben presto che quello che caratterizza il coccodrillo non è la sofferenza, ma il metodo. Questo metodo di caccia freddo, assolutamente compassato, sviluppatosi in tutta l'evoluzione, secondo cui questo animale si colloca sotto il pelo dell'acqua e aspetta le proprie vittime. E così fa il serial killer del libro. Abbiamo visto che lo Iacono, l'ispettore lo Iacono, è un uomo solitario, ha diciamo questioni familiari complesse, ma perché voi nuaristi, quando create il personaggio di un ispettore, lo create sempre con problemi emotivi o sentimentali? Hanno sempre dei caratteri un po' bruschi, hanno sempre un passato piuttosto tormentato. Allora, è vero, potrebbe essere anche questo un marchio. Non è così del tutto. Ci sono degli investigatori assolutamente simpatici, brillanti, ironici, e penso che so al Ferraro di Biondillo o ai personaggi di Sandrone D'Azieri. Ci sono certo altri, ma tutti gli uomini hanno dei problemi. Tutte le persone nella loro quotidianità hanno delle sofferenze. Quindi i poliziotti, che sono uomini, non si sottraggono a questo destino. E spesso il tormento, il dolore di avere a che fare col male dalla mattina alla sera si espande e infetta tutto il resto dell'esistenza. È quello che succede ad alcuni personaggi e ai miei specificamente. Ma questo ispettore lo Iacono potrà diventare un nuovo personaggio seriale alla Ricciardi? No. Allora, lo Iacono, io racconto un segmento di vita, quindi sicuramente il personaggio nella mia mente ha un suo futuro. Attualmente io non ho nessun obbligo contrattuale a continuare a farlo sopravvivere. Ove dovesse essere, a me piacerebbe raccontarlo ancora. Abbiamo già svelato che non muore alla fine del libro, quindi. Sì, l'agro sopravvive, lo posso dire ufficialmente. In genere come ti nasce l'idea di una trama, di un romanzo? Un po' alla volta. Nasce un po' alla volta. Nasce... Io vedo il morto, mi chiedo come sia morto, chi l'abbia ucciso, chi sembri che l'abbia ucciso, attorno a lui che vita c'era, che dolori, che passioni, che sentimenti si muovevano attorno a lui. E da questo io comincio a costruire tutti i collegamenti e le relazioni e all'improvviso tutta la storia. A quel punto mi devo sedere a scriverla. Hai dedicato questo romanzo a Ricciardi, insomma ormai è diventato un tuo amico. Non mi piaceva scordarmene in questo libro, non mi piaceva dimenticare questa figura. E poi per certi versi c'è un'unione, sono le anime al buio, perché io dedico questo libro a Luigi Alfredo Ricciardi, alle anime al buio, perché le anime hanno un buio, questo buio della malinconia, della tristezza, che possono avere tantissime radici, questi dolori, queste tenebre. E a questi ho voluto dedicare, a questo ponte che unisce questi due personaggi al di là del tempo, ho voluto dedicare il romanzo. Il commissario Ricciardi diventerà anche un personaggio televisivo, perché i diritti sono stati acquistati per una fiction da Riccardo Scamarcio e Valeria Golino. Tu parteciperai anche alla sceneggiatura di queste puntate. Che effetto ti fa però vedere Ricciardi dalle pagine di un libro ad uno schermo? Innanzitutto è un progetto ancora di là da venire, non c'è niente di certo. Poi io dico la verità, tutta questa voglia di vederlo in immagini non ce l'ho. A me piace che rimanga di carta, che rimanga nell'anima, nella passione, nello studio e nella cultura di quelli che stanno, di quelli che lo possono leggere. Quindi mi piace che rimanga ancora un personaggio di fantasia dei miei lettori per ora. Ma come lo vedi Scamarcio nei panni del commissario Ricciardi? Ma Scamarcio ha delle similitudini fisiche molto evidenti, questi occhi chiari, questo viso perennemente portatore di qualcosa di alienante, qualcosa di difficile da dover vivere, da dover sopportare. Io sono convinto, apprezzo in Scamarcio anche il suo volersi mettere in gioco, cioè il fatto di fare teatro, di andarsi a cercare film come quelli di Ospetek con maggiori contenuti, invece di cercare una carriera facile continuando a fare quello che faceva da ragazzo. È un po' lo stesso percorso che ho fatto io con Ricciardi e lo Iacono, quindi abbiamo questo in comune, non di più, ahimè. Un'ultima domanda, c'è un autore o un libro che consiglieresti ai nostri ascoltatori? Non ho alcun dubbio, la trilogia della città di Kappa di Agota Christoph, secondo me il marchio più doloroso, la ferita più forte, la cicatrice più profonda della letteratura del Novecento. Grazie a Maurizio De Giovanni, autore di Il metodo del coccodrillo, pubblicato da Mondadori. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.